Stop all'uso della carta negli uffici pubblici. Entro un paio di anni anche le pagelle scolastiche potranno essere consultate online. È una piccola rivoluzione digitale, quella promessa dal ministro della funzione pubblica Brunetta, che mostra di avere idee molto chiare anche sul problema degli impiegati pubblici fannulloni. Vanno licenziati, dice senza giri di parole il ministro. Ci sono già le leggi che consentono di farlo, solo che non sono mai state utilizzate. C'è la cassa integrazione, c'è il licenziamento, c'è già tutto. Il clima del paese è cambiato. Lo chiede il Paese. È un miracolo che la pubblica amministrazione sia ancora in piedi non avendo strumenti come incentivi, disincentivi, premi e punizioni. Un'azienda privata in queste condizioni avrebbe già chiuso, aggiunge Brunetta, che si dice pronto a collaborare con dirigenti e sindacati per innovare la macchina statale. Al ministro i sindacati replicano chiedendo intanto di attivarsi per far sì che vengano rinnovati i contratti del pubblico impiego scaduti. Il segretario generale della UIL, Angeletti. Sarebbe sufficiente un paio di riunioni, poche ore, per chiudere questi contratti e dare gli incrementi salariali. Andrea Viali, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma.